Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 16 aprile, il sole in regione è sorto alle 6.20 e tramonterà alle 19.55. Giovedì ci sarà luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Lillo Montalto Monella e Armando Mucchino. Formano e organizzano il sapere per i futuri agricoltori e tutte le persone che saranno a contatto con il mondo naturale. Sono gli istituti agrari. Inizia oggi a Vita nei Campi un percorso tra queste scuole del Friuli Venezia Giulia, partendo dall'Istituto di Istruzione Superiore Il Tagliamento di Spilimbergo. A seguire la venerazione della gente dei campi friulana per San Marco, il primo evangelizzatore di queste terre, che la leggenda vuole abbia donato a un pastore della Carnia la prima ricetta per la ricotta. Nella rubrica delle normative si parla poi delle scelte regionali per l'attuazione delle misure di sviluppo rurale e in quella dei sommelier la delicata scelta dei vini da abbinare con le carni dei secondi piatti. A seguire lo spazio che dedichiamo ai fiori con una scheda sulla dipladenia, una pianta rampicante di facile coltivazione, molto popolare grazie alla sua tolleranza al calore e alla crescita veloce. Come di consueto, in chiusura all'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, le previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Oggi Vita nei Campi inizia un viaggio tra gli istituti agrari della nostra regione. Un viaggio che inizia a Spilimbergo con l'Istituto di Istruzione Superiore Il Tagliamento. Con noi la dirigente scolastica Lucia D'Andrea. Qui chiediamo subito carta d'identità del vostro istituto. L'istituto nasce nel 1976 e come costola del Cerletti di Conegliano, negli anni 80 diventa autonomo e nell'82 si trasferisce nell'attuale sede di Via degli Alpini, nella sede che è stata donata dagli Stati Uniti d'America grazie all'intervento della sezione degli Alpini di Spilimbergo. Oggi si chiamano articolazioni. Com'è articolato appunto il vostro istituto? L'istituto agrario fa parte di un istituto che ha in sé altri indirizzi tecnici, ma l'istituto agrario in sé ha l'articolazione di produzione e trasformazione dei prodotti e gestione ambiente e territorio. Quanti cosa fanno i vostri allievi? Allora, gli allievi l'anno prossimo saranno circa 1000, ma ovviamente si tratta di un numero complessivo di tutto l'istituto, mentre per quanto riguarda l'istituto agrario sono circa 450-500, ovviamente il numero varia da quest'anno all'anno prossimo. E nell'articolazione gestione ambiente e territorio si occupano essenzialmente della gestione del verde e della progettazione del verde. Per quanto riguarda invece l'articolazione produzione e trasformazione dei prodotti, lo dice già di per sé l'articolazione, il titolo dell'articolazione si occupa di come vengono trasformati i prodotti agrari o di produzione animale. L'agricoltura che però si intende insegnare all'istituto è quella di un'agricoltura multifunzionale, quindi con un'apertura a 360 gradi per quanto riguarda le competenze che i ragazzi devono acquisire al termine del percorso quinquennale. Questi ragazzi da dove arrivano e dove vogliono andare? Allora, il bacino d'utenza è molto ampio. I ragazzi dell'istituto agrario provengono da oltre 60 comuni, non solo della provincia di Pordenone, ma della provincia di Udine e anche della contigua provincia di Venezia. Il loro percorso dopo il diploma è vario, nel senso che una parte di loro prosegue gli studi all'università, una parte invece decide di fare un post diploma, una terza parte si inserisce direttamente nel mondo del lavoro. A 6 mesi dal diploma, di fatto, tutti hanno già trovato una loro collocazione o nella prosecuzione degli studi o appunto nel mondo del lavoro, in aziende familiari o in aziende diverse. Incontrano però già un'azienda a scuola, la vostra azienda. Sì, l'azienda agraria dell'istituto può contare su 13 ettari, di cui una parte anche importante non produttiva, che è proprio quella dell'orto botanico e del bosco. è un'azienda che è stata convertita ormai da parecchi anni al biologico, è anche fattoria sociale didattica e all'interno dell'azienda agraria dell'istituto è incardinata un'unità educativa territoriale che accoglie adulti disabili in collaborazione con l'azienda sanitaria. Avete anche un importante e famoso roseto. Sì, è un roseto che ormai è da anni che presentiamo al pubblico all'interno delle giornate di Giardini Aperti, tant'è che la scuola aderisce alla manifestazione regionale Giardini Aperti che si terrà il prossimo 21 maggio 2023. E fate anche la birra. Birra ancora a livello didattico e dimostrativo, non siamo ancora nelle condizioni di porla in vendita all'utenza esterna. Come vede il vostro futuro? Beh, il futuro è proprio all'insegna di una formazione a 360 gradi che curi un curriculum anche digitale degli studenti che poi debbono avere però delle competenze disciplinari professionalizzanti molto solide, tant'è che i ragazzi durante il percorso quinquennale al raggiungimento della maggiore età possono seguire un corso all'interno della scuola per il conseguimento del patentino per il trattore e per l'utilizzo dei fitofarmaci. Poi in collaborazione col CESFAM di Paluzza fanno anche un corso per l'uso della motosega, questo è ovviamente su base volontaria. Tra la gente dei campi del Friuli Venezia Giulia, alta è sempre stata la venerazione per San Marco, il primo evangelizzatore di queste terre, che la leggenda vuole abbia donato ad un pastore della Carnia la ricetta della ricotta in cambio dell'ospitalità ricevuta. Superata la metà di aprile, i villaggi delle comunità rurali friulane si preparavano, e lo fanno tuttora, a celebrare in maniera solenne la festa di San Marco, segnata sul calendario al 25 del mese. Non si tratta certamente di un tributo al vessillo imposto dalla Repubblica di Venezia, dopo la conquista della patria del Friuli, risalente al 1420, ma del santo taumaturgo in persona, che in terra patriarcale venne fatto oggetto di un culto improntato alla più grande devozione. Marco, infatti, godette di una particolare venerazione fra le genti contadine friulane, che lo considerarono il primo evangelizzatore di queste nostre terre, poste a settentrione dell'Alto Seno Adriatico. Secondo la tradizione, sarebbe giunto nei nostri paraggi via mare, da Alessandria d'Egitto, attorno all'anno 47, sbarcando nei pressi di Latisana, dopo aver risalito per un certo tratto la foce del fiume Tagliamento. È qui che avrebbe conosciuto Ermacora, suggellando con lui un rapporto di filiazione spirituale, in virtù del quale dovrebbe più tardi consacrato primo vescovo dell'Agro Aquileiese, donandogli una copia del suo Vangelo, quello scritto di suo pugno, destinata a diventare reliquia, venerata per secoli dalle genti di tutta Europa, nelle aule del monastero di San Giovanni in Tuba, presso le bocche del Timavo. Oggi quel manoscritto è conservato nelle biblioteche di Cividale, Praga e Venezia, dopo essere stato smembrato in tre distinte parti. Il pastorale che Ermacora ricevette direttamente dalle mani di questo potentissimo santo guaritore richiamerebbe, secondo le credenze popolari, la falce montante e decrescente della luna. Un bastone prodigioso, dunque, capace di disegnare in aria quei reticoli magici in grado di individuare nel cielo stellato le costellazioni, i movimenti delle sfere celesti, la musica ad esse sottese e quindi una sintesi stupefacente di tutte le conoscenze utili nel mondo antico ad orientarsi nel canto delle stagioni. Potremmo quasi dire che sotto il pastorale di Ermacora si squadernava un calendario astronomico capace di indicare i tempi della semina e del raccolto, i ritmi della morte e della rinascita. Un santo legato profondamente al mondo contadino e pastorale. A lui si deve l'invenzione della ricotta, il cui segreto venne concesso a un pastore della Carnia che gli aveva offerto ospitalità, malgrado la povertà che lo affliggeva, e insieme poterono godere di una cena a base di quella bianca schiuma golosa, impreziosita da qualche stilla di miele. La La Giunta regionale ha approvato il completamento di programmazione dello sviluppo rurale. Ne parliamo con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Il piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, approvato dalla Commissione europea lo scorso dicembre, oltre alle disposizioni per i pagamenti diretti del primo pilastro, contiene anche la disciplina delle misure di mercato, le OCM, e tutte le possibili misure di aiuto previste per lo sviluppo rurale dall'Italia. Un insieme di ben 76 interventi diversi che le singole regioni possono scegliere di attivare con limitatissimi margini di personalizzazione. Il testo integrale del piano strategico è scaricabile dal portale www.reterurale.it nella sezione Politica Agricola Comune 2023-2027, ma obiettivamente è un documento di 3.600 pagine di difficile consultazione anche per gli addetti ai lavori. Quindi è intervenuta la Regione? Esatto, con delibera di giunta numero 26 del 13 gennaio 2023, il Friuli Venezia Giulia ha adottato il complemento di programmazione che contiene le scelte regionali per l'attuazione delle misure di sviluppo rurale che si può scaricare dal portale www.europa.regione.fvg.it. Rispetto al piano strategico, il complemento di programmazione è un documento molto più snello e utile ai fini pratici che tutti gli agricoltori dovrebbero ottenere in azienda. Esso rappresenta la base normativa sulla quale si svilupperanno i futuri bandi della nuova programmazione e contiene, intervento per intervento, l'individuazione dei possibili beneficiari, le tipologie di spese finanziabili, gli impegni, i massimali di spesa ammessa e le percentuali di contributo. È un documento tecnico o di indirizzo politico? Beh, direi entrambe le cose, tenuto conto che le risorse disponibili sono limitate, che la nuova programmazione durerà 5 anni anziché 7 canonici, che le nuove regole impongono tempi ridotti per la rendicontazione della spesa, era necessario semplificare al massimo la gestione del programma. Così l'amministrazione regionale, d'intesa con il partenariato, ha ritenuto opportuno attivare un numero limitato di interventi, 29 dei 76 possibili, cercando anche la massima continuità con la precedente programmazione. Quante risorse avrà a disposizione il Friuli Venezia Giulia? Il riparto dei fondi è stato oggetto di discussioni molto accese in sede di conferenza Stato-Regioni. Alla fine al Friuli Venezia Giulia sono destinati 227 milioni, ai quali si aggiungono 50 milioni di risorse aggiuntive regionali assegnate con l'ultima legge di stabilità. Al netto delle risorse del Recovery Plan, il budget annuale disponibile sarà di circa 45 milioni e mezzo di euro contro i 41,4 del periodo 2014-2020. Si sperava di più, ma un piccolo miglioramento comunque c'è stato. Sono tante le varianti del gusto legate ai secondi piatti del nostro menù, dove domina la carne. Vladimiro Tulisso, nella rubrica dei sommelier, ci offre una serie di consigli e di possibili abbinamenti con il vino. Continuiamo ad affrontare il tema dell'abbinamento tra cibo e vino. Ormai sappiamo che non si tratta di regole uniche, perché a uno stesso piatto si possono abbinare più vini. Ci sono abbinamenti scontati e altri, diciamo, più sperimentali. Faccio qualche esempio per dei secondi piatti, ricordandoci che tanto più il cibo è complesso, tanto più il vino dovrà essere strutturato. Il pollame rappresenta una carne dal gusto delicato, ecco perché avvicinarci un vino rosso non è la scelta opportuna, perché lo sovrasterebbe. Ma se il pollo fosse cucinato arrosto, potremmo sentirci a nostro agio con un vino rosato. E infine, se fosse alla cacciatora, quindi con molte spezie e salsa al pomodoro, beh, stappiamo pure un vino rosso giovane, meglio se non troppo alcolico. Se il cibo che vogliamo portare alla bocca è particolarmente untuoso, dovremo abbinarci, come abbiamo visto in precedenza, un vino tannico. Il tannino, che è una sostanza all'interno dei vini rossi, è astringente al palato e pulisce la bocca. Quindi brasati e arrosti ricchi di sugo sono perfetti con vini ricchi di tannino. Il manzo alla griglia ha la succulenza, ovvero quella sensazione di liquido in bocca, sia perché è già presente nel boccone, ma anche perché il cibo induce lo stimolo della salivazione. Per compensare la succulenza servirà un vino rosso alcolico e tannico, perché alcol e tannino sono sostanze in grado di asciugare la sensazione liquida lasciata dal cibo. Se la carne alla griglia fosse infine di maiale, quindi più grassa, Avremo bisogno di un vino rosso, magari frizzante, perché le bollicine sanno battagliare molto bene con la sensazione di pastosità in bocca determinata dalla presenza di grasso. Gli stracotti e i brasati, infine, hanno lunghe cotture e desidereranno accoppiarsi volentieri con vini di lunga maturazione, quindi molto morbidi, alcolici e con un tannino che nel tempo si è ridotto. Anche selvaggina e cacciagione si sposano con vini rossi invecchiati. Parlando di cibo speziato, per concludere questo nostro appuntamento, il vino che potremo portare in tavola avrà un gusto intenso e molto persistente per non farsi seppellire dal cibo ed essere dimenticato troppo in fretta. Alessandro Squizzato per la rubrica dei fiori oggi ci parla della Dipladenia, pianta rampicante di facile coltivazione, molto popolare grazie alla sua tolleranza al calore e alla crescita veloce. La Dipladenia è originaria del Sud America e dell'America Centrale. È una pianta rampicante dal persistente fogliame verde brillante. Sta diventando molto popolare grazie alla sua alta tolleranza al calore e soprattutto grazie alla sua crescita veloce. Di facile coltivazione, necessita solamente di sole, molta luce ed irrigazioni regolari, tollerando molto bene alcuni periodi di siccità. I suoi fiori sono imbuttiformi, simili a campanelle, nelle colorazioni del rosso, rosa, bianco, giallo, arancio. In base alle varietà troviamo Dipladenia a crescita eretta o cascante, con fiori che vanno dalle medie dimensioni alle giganti. Vi anticipo che quest'anno troverete in commercio anche varietà a fiore doppio, molto accattivanti. La Dipladenia teme il gelo. In luoghi in cui l'inverno le temperature scendono molto al di sotto dello zero, la pianta dovrà essere riposta in un locale riparato, ma luminoso, per poi essere posta nuovamente all'esterno quando le condizioni climatiche saranno favorevoli. Al sud Italia, invece, le Dipladenie possono rimanere e prosperare all'esterno, formando vere e proprie opere d'arte naturali. Riesce a crescere bene anche nelle zone di mezz'ombra, producendo però più fogliame e meno fiori. Quando acquistiamo la Dipladenia, dobbiamo ricordarci di allevarla in un vaso sufficientemente grande, perché necessita di molto substrato per crescere e non avere problemi. Utilizziamo un terriccio universale, oppure per piante da fiori, che abbia una buona capacità drenante. Le irrigazioni dovranno essere fatte in modo che l'acqua nel sottovaso sia assorbita entro mezz'ora dalla somministrazione, perché questa pianta non tollera il ristagno idrico e reagisce velocemente perdendo foglie e fiori. Settimanalmente, con le bagnature, aggiungiamo del concime per piante da fiore. Avremo così una produzione record di fiori per svariati mesi. Le potature di contenimento possono essere eseguite durante tutto l'arco della bella stagione, ma sarebbe meglio effettuare in primavera i tagli decisi di parti grosse e vecchie. Ricordiamoci che la Dipladenia fiorisce nei rami giovani di annata. Dopo 2-3 anni che la pianta rimane nel contenitore, sarebbe necessario rinvasarla in un vaso o cassetta più grande con terriccio fresco e nuovo. Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato debole con prezzi in generale stazionari. Venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole delle Camere di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 25,40 e 25,70 euro al quintale, IVA esclusa. Il frumento tra 24 e 24,50. L'ordo peso specifico 62,65 tra 21,50 e 22 euro e la soia tra 49,50 e 50 euro il quintale. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 9,30 euro il quintale e la soia di 18,90. Scarse contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi generalmente stabili. La lattuga Trocadero viene quotata tra 1,20 e 1,30 euro il chilo, IVA esclusa. L'insalata Gentile tra 1,10 e 1,60. Le zucchine tra 1,50 e 1,60. Le melanzane tonde tra 1,60 e 1,80. I cavoli tra 1,10 e 1,30. I peperoni gialli e rossi italiani tra 3,50 e 4 euro il chilo. I pomodori in grappolo tra 2,80 e 3 euro. Il radicchio rosso tondo e quello di Treviso da 1,20 a 1,80. Gli aspargi bianchi da 5 a 8 euro. Le patate da 0,65 a 0,75. Le fragole italiane tra 1,50 tra 4 e 5 euro e le arance e tarocco tra 1 e 62 euro il chilo. Nel settore della pesca, per condizioni meteo variabili, i prezzi sono in revisione. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunari, i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 20 a 31 euro il chilo, IVA esclusa. Le orate da 7 a 18, le canoce da 5 a 14, i rombi da 28 a 35, le capesante e i canestrelli da 15 a 20, le seppie da 7 a 11, i calamari da 20 a 28 e i moscardini o folpi da 7 a 16 euro il chilo. Nel settore caseario, la Commissione Camerale di Pordenone e Udine ha confermato il montaggio di 90 giorni tra 8,70 e 8,90 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 9,80 e 9,90, lo stagionato 12-15 mesi tra 10,10 e 10,30. Prezzi riflessivi nel settore dei foraggi. Il fieno Maggengo di pianura viene quotato tra 18 e 21 euro il quintale, IVA esclusa. L'erba medica di prima qualità fra 33 e 34 euro e la paglia di cereali pressata viene pagata fra 9,50 e 10,50 euro il quintale. Infine, scambi attivi con lievi cenni di ripresa nel settore degli avicunicoli. Il valore dei polli a terra varia da 1,40 a 1,42 euro il chilo, IVA esclusa. Le anatre da 3,66 a 3,70. I tacchini maschi da 1,95 a 1,97, le oche nostrane da 8 a 9 euro, i conigli oltre 2,5 kg da 2,41 a 2,47, le uova oltre 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 25 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA, Francesco Sioni, diamo uno sguardo al tempo che farà la settimana entrante. Dopo un febbraio e marzo caratterizzati prevalentemente da siccità e pochi eventi con piogge significative, nelle giornate di giovedì 13 e venerdì 14 una depressione ha interessato l'area mediterranea, portando precipitazioni diffuse ed abbondanti ad intense su tutta la regione. In pianura, sulla zona orientale e dell'Udinese, sono caduti tra gli 80 e 120 mm di pioggia, circa 40-60 nella destra Tagliamento. Per quanto riguarda la neve in montagna, sulle Giulie e Carnia orientale si sono registrati 60-70 cm di neve fresca, sopra i 1300-1500 metri, con accumuli locali anche di quasi un metro. Nel Tarvisiano la neve ha raggiunto anche il fondovalle, con accumuli di circa 10-15 cm. Insomma, l'evento con più precipitazioni da diversi mesi, che è riuscito anche a portare una preziosa riserva di acqua sui monti sotto forma di neve. Passando ora alle previsioni per la settimana entrante, la depressione che ci ha interessato negli scorsi giorni tenderà ad isolarsi spostandosi progressivamente dal Mar Tirreno al Mar Ionio, determinando l'afflusso sulla regione di correnti in quota in prevalenza umide, che saranno inizialmente da sud-est, poi in seguito da est. Lunedì e martedì avremo quindi delle giornate all'insegna della variabilità, con alternanza di schiarite a fasi di nuvolosità consistente. Le correnti umide potranno portare qualche debole pioggia sparsa o qualche locale rovescio. Soffierà bora moderata sulla costa e sulle zone orientali della pianura, con qualche raffica che sul Carso e a Trieste potrà essere anche sostenuta. Anche in quota su Alpi e Prealpi Giulie soffierà vento dal nord-est moderato, ma con raffiche sostenute. Oltretutto, con lunedì avremo anche un aumento delle temperature, in particolare delle massime, che sulla pianura potranno raggiungere i 19-21 gradi. La tendenza nella seconda metà della settimana, invece, per ora rimane ancora incerta e perciò raccomandiamo di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni sulla RAI regionale, sul nostro sito web e sui principali social media. Alla prossima! Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi a un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Avril, un'ora sute, un'ora plovil, ovvero d'aprile, un'ora asciutta, un'ora piovosa. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Lillo Montalto Monella, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.